Parlata, parla tutta. La giumuligata, e questa la giumparata, e tu me, to. E allora mio figliolo ha sbagliato un muscolo. Marinina, ti la giova di sani io. Non ti la giova di fasciati. C'è su questo. E la giudizio non me la dare più a me, quando è così dura di carne, perché te la riporto indietro. A parte non mi sono dato via a comprare l'inda. Insomma, è logico, quando sta figura. La carremona per i nocchi, mi saccati giù, i giù camminuccio, vedane i nocchi. Io mi vedane buona la carne. Ma loro già lo sanno qual è quella tenera che sa tutta, capito? Sì. L'ha detto una cucina a gare di cavato un bel manna vita, vita, che era tutta virus a gare. Così era cavato di 30 anni. Vabbè, sicuramente qua. Ma per me è uno bravo in chi a Romonti, che la prende buona, però maledetto. E chi? Che sopravvia 10 a maledetto. Conosco, ma tu. Ah, forse è quello di fronte alla farmacia, forse è quello lì, capito. Ma detto che è buona chi? E allora mi subito vicino alla farmacia. Non lo so, non sono mai andato. Quello già la fa buona. Già ce l'ha buona. Allora, questi che vendono la carne di cavallo hanno i clienti sui, capito? Magari la figura la prima volta te la dà di buona, la seconda volta te la dà di caucciù. Ma pure sono un cliente però. Ma quando ne hanno tanti i clienti non te la fuggi nulla. Se te la imbaccano, oppure te la mischiano, capito? Ma pure mi. Io quando è buona ti la bizzimi, una girata, un'altra girata. Se è buona ti la bizzimi subito. Perché il salsiccione è lo stesso, tu prendi il salsiccione del cavallo e poi in mezzo un burro carne d'aino in mezzo, capito? E te ne accorgi perché la carne dell'asinello rimane dolce. Gesù, mamma, ma la carne d'aino è buona a me. Già lo so che è buona, io l'ho mangiata, niente da dire. Però se è asinello, se è inumano è tutta bruvissa. Gesù. Provo per carità che gente brutta. Ma te la metta Niccolino? Eglia. Cesso, e non che frequentezza un circolo. E non che via. Dopo il maturo c'è solo una di 70 anni. Dai, domani più basso. Frequenta i nonchi in via Mundas, dove un dio frequente già mio suocero. Ah, ho capito. Ma lì vicino a te c'è una macelleria, mi pare. E te l'ha già detto. E cos'è, quella prima di quella farmacia, no? No. E venne una di fronte al supermercato, tu sì? No, sei Mariente. E io sono da Capinuccio. Ah, sì, c'è proprio, però è giù, dove la porta. Quello lì sto dicendo. Chi sa la carne è buona? Quella è buona lo stesso. Da poi è meglio osso, beh. Le altre non le conosco, se ce ne sono altre, io conosco lì. Ah, e poi ce n'è una giù, sì, vicino al panificio. Ehi, ho capito. Anche quello dovrebbe avere carne buona lo stesso. No, e dove c'è carne di Cariggio, cioè. Vedino più giù su della Bassana. Ho capito quale, sì. Mi sembra una gara. Confermo quello che dice Antonio, che Cariggio è 10. Ciao Luca, buonasera, ben entrato. Che ne chiede adesso? Ti devo chiamare di guardare la città. No, Cariggio non ce n'è. Io, quello è il salsiccione lì, fra. La roba è molto di biato, lo fai col sugo, poi te lo cucini così, con arrosto, uia, la fine del mondo. E dove lui? Ah, tanto non è la Cariggio, qui giù del Bassanna. Ah, ho capito, sì. Ma io sono una vera gara. Lì si chiama Bancoforno, la casa da fare in Ibiza, via Paganini, un di benzina da Bacchino, ma tu devi assaggiare quel pane, buonare, allora, fra, a parte che la pulizia pulizia, non ce n'è, non intendi via cristiana quando entri, proprio carne fresca, cioè che giove proprio 10, ma sono un troppo, non ho idea. E infatti, è quello il discorso. Se quando la vorrà compri, pigli tutti in due, io l'ho comprata da una persona, dico ti è, ed era tutta che era valla. Ma si conferma. È la seconda volta che gliela compro, sempre di nulla, la seconda volta che te la giubano da addosso. Ha detto, ma dice, no, non è buio, to, te ne indira. Ha detto, le mette solo nelle scarpe e ce li ho buone, non me ne serve. Fa, casino, no, vai giù, non ce n'è. Anche tipo il capocollo, ui, ui, ne, o sono le fettine di maiale, ui, 10. Prendela. Adesso provo a prenderla lì, qualche giorno che è. Mi fermo e la prendo lì, Luca. Che bei positivo, fratello, cazzo. Che bei, che bei, tutto sotto controllo, qua. Oli, vai a tu. E quella volta che l'avevo presa la cosa, buonanotte, era. Quella volta che l'avevo presa da... in via Zaffarino. Quelli di soffici di paese, insomma. Diciamo, davvero. Che bebe catassa sarebbe buona la carne? Ciao Giano. Quello che c'è a parte via di Catassasse, dopo il Bartolino, là. Poi c'era il Bartolino prima, lì, sulla sinistra. Anche lì è buona e fresca, però la volevo un bello stesso. E beh, e quando c'è i rughi ne andrà a compararla, e chi te la canzone? Se quando la compri è diverso. Se quando la compri va a così in culo. Che sa della Rigani? Secondo me è roba di fuori, capito? Per carità. Qui c'è carne sarda e magari arrivi da chissà da lì. Io vedo che non ti vedo, quando c'era un genere che ce l'ha trovato lì, la carne la portavo a Reggio Emilia, capito? Se non era buona. Per carità, va, a giù mai. Ma era la pagava di manco, quel preso, era vendita di più. Ma che tu te la mangiato un demontinetto, eh? Un bel anni fa, sì, artista, poi me n'era andato. Addirittura. Camionista, prendo quella merce da Predaneta e la portavo su via Mendola. Ah, e lasci? Con un camion, con 110. Che aveva, e altri tempi era. Allora si guadagnava di più in lire. Adesso con l'euro non puoi fare più nulla, è una buttitura l'euro. Sul microfono ogni tanto si blocca, eh. Ma Luigi Cucci avverai. Cosa? Luigi Cucci avverai. No, non ne ho preso, non ho fatto, non c'è la cibo. Infatti, se non c'è la CQC non la puoi utilizzare neanche. Usando un doglio, CQC la devo fare, ci vogliono sulle 400 euro, capito, per farlo, ma là si è bloccato, su BTT. Ma avrei fatto entrare a lavorare subito, se avrei fatto lavorare, da noi, che stanno cercando autista. Ma che cosa, portare bombole? E tu dove stai lavorando? Io lavoro per la cazzo, lavoro tu, ho capito. Stavo cercando autista, Diciamo che Luigi Cucci aveva abitato con Gesuino, entra a trovargli subito. Subito. E chi mi deve fare tutto un giorno di tazzerna, usare la roba a noi, però mi sa vedinare a fine mese. Ma Gesuino qual è? Quello che c'ha il furgone? No, Gesuino lavora, fa tecnico le luci lui, e fa anche, gestisce anche l'amministrazione, là. Ah ecco, ho capito, sì. E per prendere CQC deve fare un altro esame adesso, capito. Vabbè, una cazzata a prendertelo, eh. Ma devi studiare. Se ce l'avessi avuto ne avrei parlato e ne aiuta a lavorare con noi. Non è un lavoro normale, è un lavoro particolare, devi lavorare tutta la notte, devi poi riposarti se vuoi prima di partire. È un lavoro un po' particolare, non è. Però bisogna di no, a fine me. cosa fai, Antulli? Io monto audio, luci, un po' di tutto faccio. Un po' credo di tutto. Ho capito, sì. Scarico, carico, monto un po' di tutto. Gappa. Luca. Luca. Luca deve essere, sta facendo cosa? Gappa. Casino. Righi, soprattutto quando comincia il turco di azienda, che guidi quel camion lì, devi andare un bel lontano. Nuoro, Rizzano, Cagliari, magari perché loro fanno un giro strano, cioè, quando cominciano il tour nuovo, cominci a farti un bel, tutti i paesi del Cagliaritano, del Rizzanese, già lo so già. Purtroppo l'autista è così, io già l'ho fatto, già lo so com'è. Ma come ogni tanto di già male a qualche altra cosa? Non lo sai che è così. Però questo ordina. Vabbè, se vuoi di nato devi travagliare, se no non vedete di nato se travagliare. Ma come mai sei andato la multinetto, sei proprio casino, vero? Ah, me ne sono andato perché poi avevo trovato un lavoro meglio alla Zanussi e me ne ero andato per quello, ma avevano fatto di più, capito? La bambina come è stato? Un giramento di scatole poi? Con la Zanussi c'erano degli anni, c'ero quasi 30 anni con la Zanussi io. E anche te ne sei andato? Me ne sono andato perché poi questa ditta ha fallito, hanno bisticciato tre succi e ne è uscito un mezzo casino, diciamo, capito? Quindi ha chiuso tutto e poi sono entrati i figli, hanno fatto ancora più casino e allora ha chiuso Battilli, ha chiuso tutto, ha bruciato liquidazione, litugante, un casino. Beh, da niente, già. Prima era una banca, pagava ogni mese puntuale, ogni 5 soldi. Io all'epoca in lire prendevo 1.700.000 lire, poi in euro prendevo 1.620, 1.700. Ah, sta di me, eh? Già lo grido. Poi c'ho anche io, c'ho quasi 40 anni di contributi, anche tu, capito? 40, poi c'ho 2 anni di marina, 1 anno e mezzo di marina, 41 anni, poi prendere entrare sulla legge della pensionistica, capito? Hai fatto male, ho rimanito in chibi, è stato già in pensione e tutto. Vabbè, sono stato là, sì, In chibi già, ma sono fatto anch'io stupido non andare a insistere, a andare a rompere la scatola a qualche uno. Allora, se io mi sarei stato in marina, avrei avuto una bella pensione, sarei stato in pensione a 50 anni, capito? Avevamo fatto male, Vabbè, quelli sono gli sbagli che fai nella vita. Purtroppo non si può tornare, non puoi tornare indietro dalle cose passate, tutto lì. E poi marina quindi di più dell'esercito, o forse non lo so. Io e marina l'ho pagato bene, prendevo 800.000 lire al mese. All'epoca eri giovane. Faccio il conto, nell'81 a tu. Mi chiamo un bel mio, diciamo. Già non credo che era un bel. Prima con 800.000 lire è comparato il mondo. E avevano un pareggio più lungo, però. Avevano un 200 euro con un pareggio, manco un mondo, anche non ti basta né più. Non so voi. Con l'euro, diciamo che l'euro ha rovinato tutto, capito? Che sai niente imbecille, ha rovinato tanto bene. Sì, dai niente imbecille, dai niente l'euro imbecille. Purtroppo, siamo così adesso. Che ci puoi fare? A pagare alla rimisera, non ti preoccupare. Pagare dai, Luca! A pagare, sempre in sopra la bomba, a pagare. Guarda. E tu devi considerare che siamo in Italia. Veramente incredibile qua. Quei ti dica. Tutto magna magna No, il problema è che qua è diventato un casino qua in Italia. Non si può più andare avanti, cioè. Io comunque comunque ti giuro che se avessi saputo la vita che devo fare, così da povaraccio e coso, avrei fatto di tutto, avrei rotto le balle per andare a in marina, cioè per andare o in marina o all'esercito. Ne avrei convinti, perché adesso sarei stato anche qualcuno e a 50 anni, a 52 anni avrei avuto l'ambizione. Sì, sì. E si conferma che è così. E cosa vuoi fare? Perché anche io sono di novembre, quindi era in marina allora. Il militare è fatto, ne hai? No, stavo aspettando la chiamata. Ho capito. Io ho fatto un anno e mezzo di marina. Io ho sbagliato proprio. Ho sbagliato. Un anno e mezzo. Io l'ho fatto la Spezia, a Taranto e alla Maddalena, ho capito. Io ci sono stato alla Spezia. Bella la Spezia, eh? Taranto non mi piace come te. Ci stava troppo male a Taranto. Vabbè, cosa vuoi là? Ma cosa hai fatto? Sono marina tu. Figlia, marina e tu. Ho fatto male io. A Napoli a me, va. E altri tipi erano. Anche io ho fatto male, io non mi sono rimasto. Vabbè, adesso è un casino entrare in marina, adesso devi fare i concorsi, Non metti più. Ma perché non ne attorgono quella pagliacciata? Prima quando andavano a fare il militare, erano anche per l'esercito così. Quando andavano a fare il militare, prima era, cioè, diventato un uomo. Ha fatto tutti, ma carità. Deve fare i concorsi, sia in polizia che nei carabinieri. In tutto il tipo di armi devi fare i concorsi, se no non c'entri. Se vinci il concorso va bene, se non vedi entra ne altri. Magari su 200 ne entrano 100, capito? Sì, ma in polizia per fare il bel culo, almeno a farmagliare. Prima conoscevi gente, una spinta e riuscivi praticamente a entrarci. Adesso è un casino. Adesso se non fai corsi non fai tribù. No, non ha bisogno, no. Che conosci gente, già ti mantieni in traccia. No, non lo so da quanti funziona, io so dove bussi. Dopo si hanno cambiato, non lo so. Prima non te la metti che si chiudiano in polizia. Pure si rimette a saltare dove? Fa cosa di pulire negozia, che allora si mantiene in sparatore. Prima sì, ma adesso è diverso, capito? Vabbè, tu dai, io ti saluto che vado a fare qualche cosetta, se no riesci a far più nulla, a giocare a più raggioso. Devo prendere la roba dalla macchina. Ci sentiamo magari alle prossime. Eia! Ciao, ci sentiamo! Oh, sono sul 23, ma io non li sento, amore, li sento parapetta. Ok, dai, ci sentiamo. Li sento appena io. Figlia, ciao a tutti, saluto in casa e ci riascolto alle prossime. Dai. Saluto il ventuale SWL, per me è qui, ciao.